oro con l'ovo maltina e me lo bevo amaro come il Petrus. Indeciso se indossare un jeans, puo un jeans Jesus. Metto un Wrangler, poi leggo i Pinas di Linus. Esco con calma, pago lo Zagor con la moneta romana dell'Ergo Spalma. Come Fred vado dalla mia firma, la sogno su di un'amaca all'ombra di una palma. La mia macchina 131 Super Mirafiori nello stereo, un corpo e un'anima di West e Dori Ghezzi. In giro vedessi che prezzi, mamma santa. Un Dale Callire 150, ho un 7 bello nei miei pantazzam. Panni 70 e tanta, voglia di metterla a 90. Questa vita molto bassa, passa, guai a chi non se la spassa mai. Mai e poi mai riproverò questi brividi. Mai e poi mai ritroverò cose simili. Mai e poi mai le elimini. Aiuto! Amore, ti ho portato il rosso antico, diamoci dentro. Che più si aspetta, più i tempi si fanno copi. Rimpiango Sandokan su Cineviso Rupi. Lupi di Fabulandi, leggo i trasferelli. Le scatole di Silvan e di Tony Binarelli. Buon tempi quelli degli organetti che soffiavano motivi validi. A diga pongo che si fanno morbidi tra le mie mani. Richiami così vicini da non apparire più lontani. In una spirale verso il disastro, una girella nella bocca del golosastro. Uno strazio dopo Ignazio, buttami un mattone sulla testa, che questa nostalgia non passa mai. Mai e poi mai riproverò questi brividi. Mai e poi mai ritroverò cose simili. Mai e poi mai le elimini. Aiuto! Sto diventando come limiti. Mai e poi mai riproverò questi brividi. Mai e poi mai ritroverò cose simili. Mai e poi mai le elimini. Aiuto! Sto diventando come limiti. Va bene, ora c'è l'Eurostar, ma prima c'era il Lima. Amavo gustarmelo in vetrina, scioccato. La stessa che una volta ho pannato col fiato. Quando ne sposto il calcio balilla calamitato. Erano gli anni dell'acciaio inox. Ogni bambino sullo spazzolino aveva il paperino. Chi non sa cos'è ne resta fuori. Chi non sa che Ariel frega lo sporco e accarezza i colori. Non capisce che siamo peggiorati tanto che te ne vergogni. Che migliorati sono solo bambole dei sogni. Che muori per trattori ed animali. Che il dolce forno può fare pure le torte nunziali. Ridi pure ma la situazione è tragica. Perché è convinto che la maglieria sia magica. Nessuna logica mi salva, sai, sono un fottuto nostalgico. Non mi riprenderò mai. Mai.